Hadith numero 42 da Anas, che Allah sia compiaciuto di lui, disse: udii dire all'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah l'Eterno ha detto: o figlio di Adamo, in verità, fino a quando tu mi invochi e mi implori, io ti perdonerò ciò che hai commesso e non ne terrò conto. O figlio di Adamo, anche se i tuoi peccati raggiungessero le nuvole del cielo e tu mi chiedessi perdono, io ti perdonerei. O figlio di Adamo, se tu portassi a me peccati della grandezza della terra, poi ti rivolgessi a me senza avermi associato alcunché, io ti concederei un perdono della stessa grandezza. L'ha riferito a Tirmidhi, che ha detto: hadith buono e autentico. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Come ho detto all'inizio della registrazione, il testo arabo, la scheda biografica del primo narratore, la fonte, la mia traduzione dei 42 hadith e le mie 40 lezioni relative a ciascuno di essi si trovano nel libro intitolato appunto Le 40 tradizioni eccellenti raccolte dall'Imam An-Nawawi, edizioni del Calamo 2002, volume 16 della serie Islam, costo euro 12. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.